Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi torniamo a parlare di business and management con la storia di un giovane consulente italiano espatriato per trovare, al di là delle Alpi, tre ingredienti fondamentali in qualsiasi paese civile: mercato del lavoro meritocratico, trasparente e competitivo, valorizzazione dei curricula internazionali, possibilità di definire al meglio i propri obiettivi di carriera. Oggi annuncio importante anche per tutti i naviganti del web: questa settimana potrete leggere sul nostro blog online gli interventi del ministro degli esteri Franco Frattini e dell'ideatore del DDL contro esodo, il deputato Guglielmo Vaccaro. All'idea che qualche nostro giovane sia costretto a lasciare l'Italia perché il suo talento trovi occasioni e modo di esprimersi, è giusto ribellarsi, scrive Frattini in esclusiva per gli ascoltatori di Giovani Talenti. Ma veniamo a noi e alla storia di questa settimana. Credo che non esista il merito senza responsabilità. Cioè, se i giovani in Italia stentano ad occupare ruoli di responsabilità, i risultati raggiunti saranno sempre difficili da misurare e altrettanto difficilmente saranno poi loro attribuiti dei meriti. Ciò che ho notato in Francia è che si sa riconoscere meglio il potenziale dei giovani ed in questo senso si sa prendere il rischio, intendiamoci un rischio calcolato, di metterli in posizioni di maggiore autonomia o di responsabilità. Carlo Luigi Fontana Giusti, 27 anni, è consulente di una multinazionale a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Grande successo lo scorso weekend dell'iniziativa Lo Sbarco, la nave dei diritti che ha unito Barcellona e Genova, trasportando oltre 500 espatriati, molti di loro giovani, verso il bel paese con un messaggio in difesa dei principi costituzionali e di protesta contro la deriva morale, culturale e politica dell'Italia. Giovani Talenti ha incontrato due di loro nel capoluogo catalano, a Caterina Dalisca, 29 anni, insegnante, editor e traduttrice di stanza in Spagna, e a Leonardo Benucci, 34enne fisico delle particelle, residente in Belgio. Abbiamo posto la stessa domanda: perché avete lasciato l'Italia e cosa vi impedisce di tornare? L'ho lasciata inizialmente per studiare un progetto Erasmus in Belgio. Dopo quasi 2 anni sono tornata per laurearmi e una volta laureata ho cercato lavoro e purtroppo non sono riuscita a trovarlo, per cui decisi di iscrivermi a un master e decisi di farlo in Spagna. Questo corso mi ha dato poi la possibilità di fare uno stage e quindi di entrare a lavorare in una casa editrice. Cosa ti impedisce di tornare in Italia? La paura di perdere tutto quello che sono riuscita a accumulare durante questi 7 anni. Ho lasciato l'Italia per poter continuare a fare quello che ho sempre voluto fare. Io sono fisico, mi occupo di fisica delle particelle. Posso dire di aver ricevuto una ottima formazione in Italia, ma a un certo punto è stato necessario andare via. E cosa ti impedisce di tornare? È difficile pensare di costruire una famiglia in un posto qual è l'Italia di oggi. No Country for Young Men, Italy's Lost Generation. Questo è il titolo di un articolo dell'agenzia di stampa internazionale Reuters, comparso di recente sul New York Times Online. L'articolo contiene un'analisi dettagliata della condizione dei giovani italiani tra lavori precari, un allungamento della permanenza in famiglia e una soffocante gerontocrazia che si traduce nell'età media, over 70, della classe dirigente del bel paese. La conclusione dell'articolo: meglio imparare le lingue ed espatriare. Intanto il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha raggiunto quota 28,8%, lo certifica l'Istat. Infelici e malpagati, con molti meno benefits rispetto ai colleghi nord-europei ma anche asiatici. Il ritratto dei ricercatori italiani che emerge da un recente studio pubblicato dalla rivista Nature è impietoso e giustifica nelle conclusioni il fenomeno dei cervelli in fuga. Sul tema ricerca, nuovo appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: siano date ai giovani le opportunità per poter continuare nel loro impegno di ricerca. E per il Ministro della Salute Ferruccio Fazio invece è fisiologica la mobilità del personale scientifico. Ciò che il governo ha fatto è un'anagrafe dei ricercatori italiani all'estero. A settembre faremo un convegno dove metteremo a disposizione un finanziamento di circa 10 milioni di euro per realizzare progetti di interazione tra i ricercatori italiani all'estero e quelli nel nostro paese, così Fazio. Migrazioni italiane nella globalizzazione sarà il tema della Summer Academy del Centro Altre Italie, che si terrà a Torino dal 5 al 9 luglio. Vi parteciperanno laureati under 40 che hanno svolto ricerche nel campo delle migrazioni italiane. Info su www.altreitalie.it. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: 2 senior economists al Committee of European Securities Regulators, con sede a Parigi, analizzeranno i trend economici e i rischi sui mercati finanziari. Richiesto il master in economia, scadenza per i CV 22 luglio, info su cesar.eu. un capo dei servizi linguistici alla European Investment Bank in Lussemburgo, richiesta la laurea e una solida conoscenza economica. Scadenza per i CV 5 luglio, info su eib.org/jobs. E infine uno Scientific Project Manager all'Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking di Bruxelles. Scadenza per i CV 17 luglio, info su imi.europa.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta sulle rive della Senna, a Parigi. Oggi torniamo a parlare di business e, perché no, anche degli studenti, dei master. Nome: Carlo Luigi. Cognome: Fontana Giusti. Età: 27. Città di origine: Roma. Studi: laurea con lode in economia monetaria alla LUIS di Roma, un anno e scambio presso la Grande Ecole ESSEC di Parigi e poi un postgraduate alla Columbia University di New York. Anno in cui hai lasciato l'Italia: nel 2003-2004 e continuativamente dal 2008. Per andare dove? Adesso vivo in Francia, a Parigi. Perché? Per il valore di un'esperienza all'estero e perché il mercato del lavoro è più competitivo e remunerativo. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono consulente in Bain & Company, una società di consulenza strategica. Dove? Seguo diversi clienti, in questo momento seguo un progetto tra Parigi e Bruxelles. Tornerai? Come cittadino europeo mi sento a casa in Francia quanto in Italia. Mi sposterei volentieri in Italia se si presentassero condizioni opportune in termini professionali e personali. Paydan 60 milioni d'amis per introdurre la storia di Carlo Luigi Fontana Giusti, espatriato in Francia. Credo di esprimere un certo malcontento della mia generazione nei confronti di ciò che l'Italia può offrire. Il gran numero di italiani che lavora ed eventualmente ha successo a Parigi, Londra e New York dovrebbe far riflettere sulle opportunità che l'Italia offre. Così Carlo ha iscritto a giovanitalenti@radio24.it. Ma cos'è questo? Un problema generazionale? In Italia c'è coscienza a livello di opinione pubblica di questo fenomeno dell'esodo di successo dovuto anche alla globalizzazione? Secondo me il problema non sono tanto i giovani italiani che se ne vanno, ma qualcosa può essere anche fisiologico e naturale, quanto gli stranieri che non vengono in Italia. Il secondo fattore mi sembra anche abbastanza preoccupante. Significa che negli occhi dei giovani europei l'Italia è economicamente sparita. La globalizzazione che lei cita non è secondo me la causa di questa dinamica, è piuttosto il fatto che ogni anno di più i giovani parlano meglio le lingue straniere e quindi paradossalmente più formiamo i nostri giovani oggi e più tenderanno a scappare all'Italia. E gli altri a non entrare. Carlo, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato in Francia. Partiamo dal tuo corso su Studiorum. Tu ti laurei in economia monetaria, 110 lode in 3 anni e mezzo alla LUIS di Roma. Beh, perché hai scelto questo percorso e quale bilancio fai oggi di questa esperienza accademica? Ho scelto economia per passione. E ho scelto la LUIS perché rispondeva secondo me a dei canoni di eccellenza che cercavano l'università. Il bilancio per me è stato molto positivo, una bellissima esperienza. Durante i tuoi studi a Roma però cogli l'occasione per espatriare una prima volta a Parigi, alla Grande Ecole ESSEC. Perché ci vai? Come ti trovi? Quale apertura mentale soprattutto ti fornisce quella esperienza? L'esperienza in Francia per me è stato il completamento di un percorso universitario. L'istruzione di una grande école è molto più vicina al business che all'economia vera e propria, nel senso che i casi studiati e discussi hanno sempre un'aderenza molto forte con la realtà lavorativa che gli studenti poi incontreranno in futuro. Studiare all'ESSEC quindi mi ha permesso di chiarirmi le idee su quale fosse il miglior percorso da seguire dopo la laurea. E tu ci scrivi che già prima di laurearti alla LUIS trovi in realtà un lavoro presso una società di consulenza, una multinazionale. Come avviene innanzitutto il processo selettivo? Dopo l'ESSEC che torno in Italia, sono deciso a quel punto ad orientarmi verso una carriera in consulenza. Prima di laurearmi partecipo alle selezioni per un business game della durata di 3 giorni che era organizzato sia dall'università insieme ai consulenti di Roland Berger. Passo i colloqui e anziché invitarmi al business game mi viene proposto di lavorare negli uffici di Roma. Io accetto e comincio subito, la laurea poi sarebbe arrivata qualche mese dopo. In questo senso l'esperienza internazionale e le conoscenze delle lingue non era tanto un facilitatore quanto una condizione sine qua non. A tutti i giovani che vogliono affrontare questo tipo di carriera consiglio di... È importante, Carlo, diciamolo ai giovani, le lingue, le esperienze all'estero servono tantissimo. Tu rimani per un periodo non lunghissimo in questa prima società di consulenza Roland Berger, dopodiché un anno dopo ti trasferisci alla tua attuale società di consulenza, ma a Roma, settembre 2005 passi a Bain. Di cosa ti occupavi inizialmente e qual era all'epoca il tuo livello di esposizione internazionale? Mi occupavo prevalentemente di progetti progetti di fusione, acquisizione, di integrazione post-merger e di riorganizzazione aziendale, prevalentemente nel settore delle istituzioni finanziarie. In termini di esposizione internazionale, la grande occasione è arrivata per me durante un progetto di acquisizione da parte di una banca francese e di una banca italiana. È un progetto molto interessante che è diventato poi il mio biglietto da visita il giorno che ho deciso di bussare alla porta della Francia. La promozione a consulente è arrivata poi abbastanza in fretta, dopo un paio d'anni, ed è stata sicuramente frutto dell'occasione che ho avuto di dimostrare il proprio valore e della fortuna che ho avuto di lavorare con persone che l'hanno saputo riconoscere. Il merito, no? Sì. Hai dimostrato di valere e hai avuto una promozione, come avviene in qualsiasi società civile. Esatto. Sì. Questo è importante dirlo, poi ci torneremo. Però la domanda ti volevo fare, Carlo, cioè non fa un po' specie pensare che poi alla fine tutti i tuoi impieghi siano stati all'interno di multinazionali? Sarebbe stato pensabile un tuo percorso all'interno di un'azienda italiana col tuo background? Onestamente mi farebbe specie se non fosse così. Parliamo di un settore particolare, quello dei servizi avanzati se vogliamo, e secondo me si regge sulla possibilità di economie di scala e di apprendimento a livello internazionale, cioè quello che noi chiamiamo best practice e knowledge management. Avrei potuto considerare una società italiana, ma sarebbe dovuta essere fortemente comunque radicata a livello internazionale. Non abbiamo casi simili. Tu a un certo punto però decidi di partire per gli Stati Uniti, Columbia Business School, dove affronti un percorso di postgraduate. Come lo ottieni? Anche quali, se possiamo dire, plus ti fornisce questa ulteriore esperienza all'estero? Dopo 3 anni di lavoro io sentivo la necessità di un periodo di studio. È stata un po' l'occasione di confrontarsi con tante persone di un background diverso in termini sia di studio che professionali. Per me è un'esperienza molto formativa e che poi mi ha aiutato sicuramente nel reinserirmi in modo migliore nel mondo del lavoro. Alla termine di questo percorso ulteriore di studi negli Stati Uniti, decidi di tornare in Europa, ma, e qui arriva un po' la sorpresa, chiedi di lasciare l'Italia e andare nella sede parigina di Bain & Company. Cosa ti spinge a lasciare il nostro paese? La Francia, come l'Italia, presenta un handicap linguistico, sta a dire in pochi parlano francese come italiano nel mondo. Tuttavia, a differenza dell'Italia, in Francia si è sviluppato un ambiente internazionale di vero scambio con altri paesi europei, specialmente con la Germania, con il Belgio, con il Lussemburgo. Quindi era un po' l'intenzione per me di respirare un ambiente veramente internazionale e più europeo. E poi, indubbiamente, le offerte economiche che mi sono state presentate sono difficilmente paragonabili con quelle italiane. Com'è l'impatto con la Francia e soprattutto ora di cosa ti occupi? Continuo a occuparmi di istituzioni finanziarie e continuo a occuparmi di progetti di riorganizzazione come di fusione e acquisizione. L'impatto è molto positivo. Io credo che le opportunità che sono offerte qui in Francia sono migliori in termini di prospettive rispetto a quelle italiane. E proprio di questo volevo parlare, cioè delle prospettive, gestione dei talenti, chiamiamola così. Perché in Francia un giovane consulente può ambire a una promozione a manager secondo modalità e tempi chiari sin dal principio? E perché, come tu ci scrivi, definire questi stessi obiettivi in Italia appare come un'azione complessa? Innanzitutto i tempi di promozione sono chiari sin da principio. Molto spesso, quasi sempre nelle società di consulenza, vige la regola della pour-out. Significa che o si è promossi al momento opportuno o si va a casa. Tu motivi, tra le altre cose, il tuo espatrio in Francia con la tentazione di raggiungere un mercato del lavoro più competitivo e trasparente, corrispondente a una certa idea di meritocrazia. Sì, concreto. Che cosa manca all'Italia? Perché è un paese opaco, dove meritocrazia, come tu dici, rimanda a qualcosa di esotico. In una frase, credo che non esista il merito senza responsabilità. Cioè, se i giovani in Italia stentano ad occupare ruoli di responsabilità, i risultati raggiunti saranno sempre difficili da misurare e altrettanto difficilmente saranno poi loro attribuiti dei meriti. Ciò che ho notato in Francia è che si sa riconoscere meglio il potenziale dei giovani ed in questo senso si sa prendere il rischio, intendiamoci un rischio calcolato, di metterli in posizioni di maggiore autonomia o di responsabilità. Ti do una statistica che mi è arrivata da Nova, tra l'altro un'associazione di cui fai parte, che raggruppa gli studenti o ex studenti di MBA italiani negli Stati Uniti. Ebbene, ci dicono che in anni, diciamo, non di crisi, solo uno studente di MBA italiano su 3 torna dagli Stati Uniti in Italia. È una perdita che ci possiamo permettere? Il problema è una dinamica che probabilmente è differente tra l'Italia e il resto d'Europa, è che questi giovani che molto spesso escono, uno su 3 che torna e 2 su 3 che rimangono fuori, molto spesso non trovano spazio, non trovano opportunità o non hanno sufficiente voglia di rientrare dopo. Questa è una dinamica un po' diversa rispetto, secondo me, agli altri paesi europei. In Francia, per esempio, abbiamo statistiche analoghe per quanto concerne gli studenti di MBA americani che non tornano in Francia, ma molto spesso tornano nell'orizzonte di 5 anni. Non so se in Italia possiamo parlare di stessi numeri. Temo di no. Carlo, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Io credo che abbiamo molti problemi, seri problemi sociali. Di fatto abbiamo una popolazione che invecchia ed una generazione di giovani che eredita tutti i problemi della generazione attuale e che suo malgrado non non riesce a trovare il proprio ruolo sociale, se vogliamo. La prima cosa che però io vorrei vedere, vorrei proporre, è il sostegno vero e forte verso l'imprenditoria giovanile. Secondo me dobbiamo favorire la presa di rischio in questo senso, dobbiamo instaurare una cultura di porte girevoli tra il settore privato, la pubblica amministrazione e l'autoimprenditoria, diciamo. Insomma, in questo modo favorire l'assurgere di una generazione che oggi è la generazione fantasma, come la chiamano. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Carlo Luigi Fontana Giusti, 27enne consulente manageriale attualmente di stanza a Parigi, laureatosi con 110 lode nel 2004 in economia monetaria alla LUISS di Roma. Carlo ha lavorato in due società di consulenza internazionali prima di prendere un biglietto per gli Stati Uniti ormai 2 anni fa e andare a studiare alla Columbia Business School. Al suo ritorno in Europa decide di lasciare l'Italia chiedendo il trasferimento nella sede parigina della propria multinazionale. Lo fa per vedere meglio valorizzato il proprio curriculum internazionale e approdare in un mercato del lavoro trasparente e meritocratico. Ci raggiunge ora in linea Mario Comana, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso la facoltà di economia della LUISS Guido Carli. Allora, professor Comana, le cito subito un suo collega, il rettore dell'Università Bocconi di Milano, Guido Tabellini, che tempo fa ha detto: dobbiamo rilevare una tendenza da parte dei giovani, che sono sempre più interessati a proiettarsi verso l'estero, che offre maggiori possibilità. Esiste, secondo lei, un problema di fuga dei talenti nel settore dei laureati nelle discipline economiche? Io ho un approccio un po' diverso a quello che prevalentemente vedo rispetto a questo problema, cioè io considererei innaturale che nel 2010 un brillante laureato che ha voglia di crescere e di conoscere si metta come limite quello dei confini del suolo patrio. Come ha già detto Carlo in precedenza, il punto è che le nostre, diciamo così, esportazioni non sono per nulla controbilanciate dalle importazioni e a differenza dell'economia reale questo saldo è negativo. C'è qualcosa che non va, però quello che le volevo chiedere, professore, se i nostri laureati in discipline economiche sono apprezzati all'estero, e lo dimostrano i casi di Carlo, ma lo dimostrano i casi di altri laureati in altre importanti università italiane, il fatto che poi alla fine qui non abbiano le stesse prospettive per i motivi che Carlo ci ha spiegato, non denota un malfunzionamento di fondo nel nostro mercato del lavoro? Per i giovani laureati, per i giovani che hanno una qualifica, skilled direbbero gli inglesi. Purtroppo è vero, e purtroppo non è un problema solo del mercato del lavoro, perché noi intendiamo per mercato del lavoro l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoratori, in questo caso naturalmente particolari e qualificati. Se ci limitassimo a questo, anche per le attività di outplacement che le università fanno, potremmo anche dare un giudizio positivo. Il problema vero è che una volta entrati nel mondo del lavoro, chi si limitasse ad una storia italiana, ad una prospettiva nazionale, certamente vede scemare le proprie possibilità di ambizione, di crescita e di successo. Perché? Intanto per un fatto squisitamente quantitativo. Non c'è dubbio che se io amplio il mio target a tutto il mondo, le occasioni che posso avere sono evidente molto più ampie che in un contesto soltanto nazionale. Ma sarebbe una risposta troppo di comodo, lei non ci crede che questa sia la mia infatti. Vera risposta, vero? No, assolutamente no. Dopodiché allora entrano in campo anche fattori culturali di scarsa mobilità sociale, di scarsa disponibilità a mettersi in gioco e in fondo di una sorta di retaggio del passato per cui comunque quando in Italia qualcuno ha raggiunto qualche cosa è impensabile che torni indietro. E guardi, io contesto anche che nell'università sia così. Io una volta che ho compiuto il mio percorso universitario sono diventato inamovibile. Credo che se alla LUISS non piacessi più e volessero cacciarmi dovrei commettere delle cose gravissime. Cioè da un certo momento abbastanza ravvicinato in poi non si mettono più in discussione le condizioni e le posizioni acquisite. Carlo, c'è una domanda che vorresti porre al professor Comana? La quota di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è di circa il 50% in Francia come in Inghilterra con contratti a tempo indeterminato. Rispetto a quello che lei dice, noi economicamente dovremmo preferire dei contratti flessibili. Al tempo stesso però la cosa ha dimostrato come specialmente per i giovani, il contratto flessibile, i contratti temporanei, eccetera, abbiamo creato di fatto dei mostri, tra virgolette, sul mercato. Come trovare, voglio dire, il bilanciamento tra questi due orientamenti? Io mi riferivo alla, non certo alla flessibilità, pure troppa, che è richiesta ai giovani. Mi riferivo al fatto che una volta che uno si è assiso, per non usare espressioni meno delicate, su una qualche poltroncina dal middle management in su, beh, lì si cementifica. Io notavo un po', devo dire, per tornare appunto alla Bocconi, che è un'altra università che forma importanti professionalità nel settore economico, notavo nell'ultima relazione del rettore Tabellini una preoccupazione nel vedere tanti giovani laureati che espatriano. È vero che occorre uno scambio, abbiamo detto che non avviene al contrario, però qui forse abbiamo un problema di ricambio della classe dirigente forte, di dare o fornire responsabilità ai giovani e dare loro prospettive serie di carriera. In Italia purtroppo non lo vediamo, all'estero sì, perché? È un dato che deriva veramente dal contesto sociale e culturale, e questa volta non lo dico soltanto per mascherarmi con una facile risposta. Se noi guardiamo tanti altri nostri contesti sociali, la gerontocrazia continua a essere uno dei criteri imperanti, e purtroppo questo si riflette all'interno delle aziende e di tutte le altre organizzazioni che ne fanno parte. Anche la nostra politica ha una lentezza di ricambio che difficilmente si riscontra all'estero. Grazie al professor Mario Comana della LUIS. Un'ultima domanda, diritto invece per Carlo Luigi Fontana Giusti. Quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Io consiglierei di sviluppare le proprie diversità, nel senso che personalmente ho avuto queste occasioni di carriera all'estero anche per il fatto che fossi uno dei pochi a parlare francese. Il fatto che io fossi l'unico in determinate condizioni ad avere questa possibilità mi ha aperto una certa porta. Coltivare le proprie diversità significa anche fare dei percorsi che non sono sempre uguali agli altri, avere la propria indipendenza intellettuale e andare avanti per la propria strada. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi vi raccontiamo una storia che arriva dalla Silicon Valley, la storia di Baia, un network che unisce i migliori professionisti dell'innovazione italiani con quelli del West americano. Marco Sgroi, presidente del chapter italiano di Baia. Baia Business Association Italy America è un'associazione non profit la cui missione è creare un network per facilitare lo scambio di conoscenze, contatti e opportunità di business tra professionisti che operano in Italia e negli Stati Uniti, prevalentemente in Silicon Valley. Baia nasce nel 2006 ed è stata fondata da manager e imprenditori italiani, molti dei quali erano venuti in Silicon Valley da studenti che poi sono rimasti lì e si sono affermati. Quindi hanno vissuto in prima persona tutti i problemi della transizione dall'Italia alla Silicon Valley e hanno pensato di creare questa associazione per facilitare gli italiani ricercatori o imprenditori professionisti che si avvicinano alla Silicon Valley e hanno interesse per essa. Quali sono le principali attività di Baia? Baia organizza periodicamente incontri che forniscono occasioni di networking e anche opportunità di approfondimento, trattandosi solitamente di panel su temi di attualità e di interesse. Baia ha organizzato tra l'Italia e gli Stati Uniti dal 2006, in questo anno in cui è stata fondata, oltre 30 eventi, tra cui panel su temi legati a scienza e tecnologia, business e imprenditoria, arte e cultura. Tra le altre attività, Baia organizza anche incontri in Silicon Valley per chi, partendo dall'Italia, vuole andare per un breve periodo di una o due settimane, fare scouting di tecnologia e conoscere l'ambiente della Silicon Valley più da vicino. Dalla vostra prospettiva, c'è un problema di espatrio di giovani di talento, professionisti qualificati dall'Italia, in questo caso verso la Silicon Valley? In questi anni abbiamo assistito a un notevole incremento del flusso di italiani, tipicamente giovani e neolaureati, che decidono di trasferirsi in Silicon Valley, spinti dal desiderio da una parte di fare un'esperienza di vita, aprire i propri orizzonti e conoscere il mondo, e dall'altra di fare un'esperienza che li arricchisca soprattutto dal punto di vista professionale, lavorando nelle maggiori aziende high-tech. Quello che vediamo è che gli italiani che vanno in Silicon Valley, dopo un breve periodo di adattamento, si inseriscono molto bene e molti di loro hanno successo. Questo fatto viene assolutamente molto positivo. Dal nostro punto di vista non dobbiamo vedere il fatto che tanti italiani vadano all'estero come una sconfitta per l'Italia. Questi italiani poi tornano arricchiti culturalmente e poi, anche se rimangono all'estero, possono essere un punto di riferimento importante per aziende e ricercatori italiani che rimangono in Italia, contribuendo poi a sviluppare un network. Ma in Italia ci sarebbero le condizioni per far sì che le loro scommesse diventino successi? Ma dunque, l'Italia sicuramente, vediamo che si sta sviluppando, soprattutto in quest'ultimo periodo, sicuramente di più la cultura dell'innovazione, si stanno facendo passi avanti anche grazie a diverse iniziative che aiutano l'Italia al mondo della Silicon Valley e la cultura della Silicon Valley. Sicuramente c'è molto da fare e ci vorrà del tempo per creare delle condizioni favorevoli e molto probabilmente non si arriverà a creare in Italia un ecosistema come quello della Silicon Valley. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.baia-network.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: i salari di ingresso per i neolaureati e i giovani professionisti in Italia li ritenete adeguati, soprattutto se li confrontiamo con la media europea? Queste le vostre risposte. Federica, laureata con master: faccio parte della generazione degli stagisti, ho alle spalle diverse esperienze, ma quello che continuano a propormi ancora oggi, o per cui posso inoltrare la mia candidatura, è nel 99,9% dei casi lo stage. Il primo è stata una collaborazione senza rimborso spese, il secondo uno stage con l'università senza rimborso spese, il terzo uno stage post-master molto lungo senza rimborso spese, scrive Federica. L'Italia è il paese dello stage, il paese in cui il giovane entra nel mondo del lavoro, ma in termini economici è costretto a gravare sulle spalle dei genitori. È il paese in cui prima di guadagnare devi regalare il tuo lavoro alle aziende per anni e anni. Forse inizierò il quarto stage, ma il lavoro, quello con la retribuzione, quando arriverà? Si chiede Federica. Alessandro invece scrive: appena hai finito la sfilza di esami e hai ricevuto il famoso pezzo di carta, non vedi l'ora che qualcuno ti chiami per offrirti un lavoro. Però non hai esperienza, non sai cosa e quanto chiedere e, cosa più importante, vivi in Italia. Il fatto di fare esperienza all'estero prima e dopo la laurea rimane per me un must, dice Alessandro. In un mondo globale dove tutti si connettono, non si può rimanere ciechi di fronte al divario salariale tra l'Italia e le grandi nazioni europee. Ora vivo in Germania con la mia ragazza e il pensiero di tornare è veramente molto lontano. Altri colleghi italiani con cui sono in contatto stanno decidendo di venire su, dato che a Roma il lavoro scarseggia, dice Alessandro. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Secondo l'associazione Nova, che raggruppa i nostri studenti di MBA negli Stati Uniti, solo uno studente di Master in Business Administration su 3 torna in Italia dopo la specializzazione oltreoceano. Non è questa una clamorosa perdita secca per la crescita del sistema paese? Cosa li respinge? Un paese incapace di offrire loro posizioni di livello o una classe dirigente che non sa o non vuole selezionare i più brillanti e preparati? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E ora potete anche interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.